La biblioteca da 9 anni registra tutte le iniziative, per cui chi non fosse in condizione una sera di venire, di partecipare, può ascoltarlo comodamente da casa dal proprio PC. Ecco, si sceglie la data, il contenuto, l'autore, insomma, facciamo questi corsi il pomeriggio anche per questo, per insegnare o dimostrare, non è che dobbiamo insegnare niente, ma per dimostrare o far vedere, far conoscere. Cosa c'è anche nel nostro sito? Cosa c'è nella biblioteca virtuale? Quali sono i servizi che da casa potete utilizzare senza venire qui? Ecco, come può essere ascoltare una conferenza anche di 6-7 anni fa, insomma. Ecco, no, di questo siamo orgogliosi. Lo diciamo poco, adesso mi devo abituare a dire un po' di più queste cose, sì. Ecco, allora. Bene, vi do il benvenuto anche al dottor Frangipane che presenta questa sera appunto il libro Fame a Bolzano. E è un libro che è già stato così presentato pubblicamente al Trevi in altre occasioni, ma non perde la forza di attrazione nei confronti del pubblico e il seguito anche di lettori che riesce a costruire. È un libro che appunto riporta delle immagini, delle notizie che riguardano anche la quotidianità, quindi sono particolarmente coinvolgenti perché ci fanno tornare indietro di 100 anni e capire com'era difficile vivere e difficile anche affrontare degli aspetti che forse per noi oggi sono molto più semplici e scontati, e inoltre così ci permette di avviare un anno che verrà dedicato anche da questa biblioteca all'anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. La primavera sarà interessata ad alcune iniziative che vi comunicheremo tempestivamente con la solita cartolina oppure la mail o anche attraverso delle notizie, delle informazioni sui giornali, ma poi la vera partita la giochiamo in autunno, ecco. Diciamo, abbiamo scelto un momento che sia di collegamento fra il 1914 e il 1915 idealmente, e quindi in autunno ci dedicheremo molto al discorso della Prima Guerra Mondiale. Ecco, io ringrazio ancora il dottor Frangipane che ci dà sempre una spinta, ecco, ad andare avanti con le nostre iniziative, e diciamo che i suoi libri sono sempre di grande interesse, vedo che escono, no? Per noi, ecco, il gergo escono vuol dire che vanno in prestito e che quindi sono dei documenti che vengono letti con grande interesse. Grazie a lei. Grazie della sua Trevisan. Che poi è sbagliato dire Trevisan, no? Si dovrebbe dire Trevisan. Sì. Adesso abbiamo anche il ministro Padoan. Sempre. Si sente in radio e in televisione Padoan. Trevisan, ah no, no, io dico sempre Trevisan. Trevisan, esatto. C'è questo accento alla tedesca sulla prima sillaba, no? Il ministro Padoan, chiamiamolo Padoan, almeno tre di noi. Bene, vi ringrazio di essere qui, numerosi, ringrazio in particolare chi è tornato a sentirmi. C'è chi è tornato e vediamo adesso di parlare di quest'ultimo mio libro, è l'ultimo libro del 2013, annata 2013, che è iniziata con Sangue, anzi Requiem a Bolzano, un giallo a tinte un po' rosse, nel quale tra l'altro ricordo i numerosi casi di femminicidio avvenuti a Bolzano nel secondo dopoguerra. Poi ho presentato, scritto, sempre pubblicato lo scorso anno, Bolzano scomparsa 5, che ho presentato qui, e che è una raccolta degli articoli che pubblico ogni domenica sull'Alto Adige, articoli che concernono la cronaca di Bolzano, quindi storie di Bolzano, personaggi di Bolzano, curiosità, immagini e così dicendo. Questo è il quinto volume della serie Bolzano è scomparsa, che passerà ai posteri se non altro per la mia fotografia vestito da figlio della Lupa, il che vuol dire che non mi sono fatto fotografare ancora a Ballilla, ma lo sono stato. Quest'anno invece esce poi è uscito Fame a Bolzano, che è quello che presento questa sera. Tra parentesi, se qualcuno di voi interessa acquistarne una copia, c'è qua il rappresentante di Cappelli in fondo alla sala, ben disponibile a venderla. Fame a Bolzano, che racconta le cronache di Bolzano durante la prima guerra mondiale. Sono 100 anni che questa guerra mondiale è iniziata. Ho voluto ricordare quegli anni con questo libro, che raccoglie, raggruppa le cronache dal 1914, pertanto sono 100 anni, al 1919. La guerra è terminata nel 18, però c'è stata tutta una serie di conseguenze alla guerra, che è stata caratterizzata qui a Bolzano, tra l'altro, dalla fame che qua si è sofferta, perché devo sottolineare la circostanza che Bolzano si trovava in prossimità del fronte dolomitico, quindi qua giungevano militari austro-ungarici che dovevano essere alimentati, tornavano dal fronte militari austro-ungarici feriti o ammalati che dovevano essere alimentati. La popolazione di Bolzano naturalmente ci rimetteva e ha sofferto veramente, autenticamente, la fame. Questo libro, che è edito dalla Tesia, appare anche in lingua tedesca, Hungersnot in Bozen, e dà la stessa impaginazione, come vedete, di Bombe su Bolzano, che è uscita 3-4 anni fa, sempre per i tipi della Tesia, e che racconta invece le cronache di Bolzano durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'elemento caratterizzante non è stato che Bolzano tanto la fame, che si è comunque sofferta, quanto le bombe, i bombardamenti. Bene. Voglio incominciare col... naturalmente per quest'anno, 2014, ho in programma qualche cos'altro. Non temete, uscirà Bolzano scomparsa numero 6, e poi ho in mente dell'altro. Adesso un editore ha un mio manoscritto e spero gli piaccia e spero lo faccia apparire. Tra l'altro dovrebbe riapparire come? Sempre di taglio storico o narrativo? Sempre di taglio storico, a mezza via tra il romanzo e la storia. Il titolo è molto significativo, adesso ve l'anticipo, poi vediamo se l'editore me lo pubblica. Il titolo è Garibaldi, destinazione Stelvio, perché Garibaldi durante la Seconda Guerra d'Indipendenza 1959 conquistò ai Savoia la parte montana della Lombardia, mentre i franco-piemontesi avanzavano in Lombardia, lui passava di valle in valle, di montagna in montagna, ed è arrivato Garibaldi fino ai piedi dello Stelvio, anzi fino al passo dello Stelvio. Ha conquistato con ciò anche come ultima valle la Valtellina. È stato bloccato Garibaldi dalla pace di Villafranca, poi nella guerra successiva dalla pace di Bezzecca, vi ricordate il famoso obbedisco? Eccetera. Però anche durante il 1959 era lì sullo Stelvio quando è giunta notizia che la guerra, insomma, c'era l'armistizio. Napoleone III e Vittorio Emanuele II avevano concesso l'armistizio a Francesco Giuseppe. Ecco, io ho immaginato la storia di uno studente bolzanino che avrebbe frequentato il liceo ginnasio dei francescani, non a caso perché anch'io durante la Seconda Guerra Mondiale, anzi subito dopo, ho frequentato quel liceo, quindi so tutto del liceo, degli ambienti, del convento, cioè ho raccontato anche un po' di me stesso, insomma, ecco. E questo ragazzo cresce progressivamente del mito del suo attaccamento al Kaiser, vuole fare il medico militare su una nave di sua maestà il Kaiser, SMS, Seiner Majestät Schiff li chiamavano, la nave di sua maestà, durante il periodo austro-ungarico. E lui parte per andare volontario come Schütze allo Stelvio a contrastare Garibaldi, e non vi dico come andrà a finire. Vi lascio con questa curiosità fino all'autunno prossimo. Bene, veniamo subito al libro, e io adesso vi inizio con una citazione diretta, con una lettura diretta che vi può dare subito l'idea di quello che vedremo e sentiremo dopo. Ecco, questo non è il libro giusto è questo. Si assomigliano molto, per cui se si può anche condurre. Inizio con queste parole. Parole scritte da una lettrice al giornale Der Tiroler il 18 agosto del 1918. Le cose stanno andando male per gli imperi centrali. Questa lettrice, Heine Lesering, scrive questa letterina che il giornale pubblica. Farina ce n'è di molto scura per un quarto di chilo alla settimana per persona. Polenta per niente. Grano nulla da molto tempo. Riso niente del tutto. Uova e latte niente. Cosa resta alla popolazione di Bolzano? Verdura come fagioli, spinaci, cavoli, cavolfiori, se si riesce ad ottenerli dopo code di ore. E queste non rappresentano di per sé un nutrimento, se non c'è dell'altro, e in particolare del grasso. Adesso c'è qualche patata. È troppo per morire, ma poco per vivere. Il giornale pubblica questa lettera, drammatica direi, che vi dà un'idea della situazione. Però voglio proseguire nella lettura anticipando parte della mia introduzione. La guerra volgeva al termine, la popolazione di Bolzano era stremata, doveva essere una guerra rapida, si protraeva invece ormai da 4 anni e non si trovava ormai più quasi nulla di commestibile. Il pane era di pessima qualità e scompariva per giornate intere, latte pochissimo, di carne non era quasi il caso di parlare. Il comune si adoperava per organizzare e sollecitare l'arrivo di beni di prima necessità, ma con scarso successo. V'erano pochi posti vendita, i giorni e gli orari di vendita venivano comunicati dai giornali, si formavano code di ore, ma le patate spesso erano marce, la carne immangiabile e la verdura impossibile. Arrivavano trasporti inutilizzabili, bestiame tanto magro da non riuscire a ricavarne che poca carne, anche bestiame morto di fame e stenti durante il viaggio, che si scaricava e si cremava. Oltretutto Bolzano sopportava la presenza di numerosi soldati qui acquartierati e di numerosissimi feriti che riempivano gli ospedali, alberghi, pensioni, le sale civiche, le Bürgersale che si trovavano in piazza del mercato dove adesso c'è il teatro. Nella distribuzione del cibo essi erano privilegiati e il sindaco Peratoner si batteva invano contro questa situazione. I prezzi di quel poco che si trovava erano calmierati, ma a dozzine i negozianti venivano denunciati ed anche incarcerati per avere preteso somme superiori al consentito e quasi sempre erano donne a gestire gli esercizi perché i mariti erano al fronte. Chi andava al ristorante poteva, anzi doveva, portarsi appresso il pane, ma di nascosto si panificava, tra virgolette, pane di lusso. C'è sempre chi riesce a sopravvivere se ha i soldi e un po' di pelo sullo stomaco. Mancavano le scarpe e allora si affidava ai prigionieri l'incarico di confezionare zoccoli con legno e cuoio ricavati da scarpe rottamate. Ai dipendenti comunali era consentito presentarsi al lavoro in zoccoli, come d'altronde avveniva già a Vienna. I bambini camminavano per la strada a piedi nudi e i giornali raccomandavano di non lasciare cadere vetri perché potevano ferirli. I privilegiati in questa situazione erano i contadini, che disponevano di risorse proprie, ma era loro proibito vendere prodotti alimentari ad accaparratori e speculatori. Chi scendeva a valle con borse piene di piene veniva perquisito. Burro ed altro venivano sequestrati. Si era coniato il neologismo Rucksackverkehr, cioè l'andare in giro con un sacco da montagna, perché si presumeva che questo sacco da montagna contenesse o potesse contenere generi alimentari acquistati in nero. Ai contadini che a Bolzano vendevano uova e frutti di bosco a prezzi ritenuti esagerati, la merce veniva sequestrata. In compenso battevano i masi militari inviati dai loro comandanti per alimentare la truppa. ma tra questi si nascondevano anche truffatori in uniforme. Molti militari facevano la cresta sugli acquisti per l'esercito, non si trovava più carbone né filo per cucire. Pensate, una cosa assurda, non si trovava filo per cucire. I furti erano frequentissimi e riguardavano quasi sempre generi alimentari. Le campane venivano fuse per farne cannoni. Dalle abitazioni veniva asportato rame ed ottone, servivano a fini di guerra. Chi non consegnava il rame veniva penalmente perseguito. Impossibile acquistare ciucci per i bambini piccoli, dei quali era altissima la mortalità, molto frequenti i suicidi. L'estrema povertà aveva indotto alla prostituzione numerose giovani donne delle valli altoatesine e trentine. Scendevano a Bolzano, esageravano nella zona del sottovirgolo, nei parchi, si incontravano sotto i ponti con i loro clienti, in gran parte, si arguisce, militari, cui la casa di tolleranza nell'attuale via Conciapelli non era sufficiente a questo punto. La lasciamo un po' perdere, ho già dato un quadro della situazione, quale era a Bolzano, non tanto 100 anni fa, perché 100 anni fa la guerra non era ancora scoppiata, no? Sarebbe scoppiata nell'estate. Comunque questo era la via verso la quale si stava incamminando la popolazione di Bolzano. Ecco, questa è la copertina del libro. Vedete qua una Kriegsküche, una cucina di guerra. Il comune offriva da mangiare, proponeva un po' di polenta, un po' di carne potete immaginare di quale qualità, pane, che era una cosa importante, e così la gente, ma non soltanto i poveri, ma anche gente che di buon livello, che non disponeva di altra forma di sostentamento, si rivolgeva alla Kriegskirche. E questo invece che vedete qui sotto è un avanzamento di truppe in piazza Walter. Arrivavano in piazza Walter, rivista, magari anche una messa al campo, come vedremo più avanti. Ed è curiosa la cosa che quando è scoppiata la guerra, si è dato l'annuncio della guerra ed arrivavano le prime truppe qui a Bolzano per ripartire, e marciavano da Gries, dove c'erano delle caserme, fino a Bolzano e cantavano inni guerreschi in italiano e in tedesco. Perché in italiano? C'erano i trentini, perno, tirolesi. E in piazza Walter, il giorno dello scoppio della guerra, e si festeggiò lo scoppio della guerra, per l'appunto, suonando una banda musicale, suonò l'inno nazionale austro-ungarico, quello tedesco e la marcia reale italiana. Perché? Perché l'Italia era legata all'Austria e all'Ungheria come che era la triplice alleanza, come alleata. Poi avvenne il 24 maggio del 1915. Andiamo avanti. Questa è la versione del libro in tedesco e questa è una prima fotografia delle numerose che vi presenterò. Il libro ne pubblica 60-70, non so quante. La trovo bella perché vedi, è Kriegsjahr 1914-1915, Bozen, questi qua sono delle reclute partite per il fronte, in procinto di partire per il fronte, dopo aver visto quelle ammassate in piazza Walter e dopo aver visto queste, viene da chiedersi quanti di questi sono tornati vivi. Il Kaiser ai suoi popoli, questa è la dichiarazione di guerra, il Tiroler la pubblica, siamo nel luglio del 1914. Notate una cosa, il Kaiser quando si rivolgeva ai suoi sudditi, si rivolgeva, diceva lui, ai suoi popoli, non al suo popolo, perché erano tanti popoli dell'impero austro-ungarico. L'impero austro-ungarico è stata una piccola Europa praticamente, no? Noi oggi facciamo rivivere, anche se un po' spostata verso Occidente, quell'ideale di comunità di popoli diversi, di lingue diverse, di religioni diverse, che era la base dell'impero austro-ungarico, che scoppiò invece proprio perché era il momento dei nazionalismi e ogni nazione, ogni gruppo etnico voleva raggiungere la propria indipendenza. Quindi Der Kaiser und seine Völker. Qua è l'entusiasmo dei soliti imbecilli. Questa è una fotografia scattata per la verità a Innsbruck e non a Bolzano. E il momento dello scoppio della guerra, appunto, i soliti imbecilli trovano modo di rallegrarsi, no? Piazza Venezia, volete burro o cannoni? Cannoni, naturalmente. Poi sappiamo come è andata a finire. E qua, eccoci nuovamente in Piazza Walter. Qui ci sono soldati che assistono ad una messa in Piazza Walter. Qui in fondo vedete quest'arco dove adesso c'è via Alto Adige, e attraverso questi due archi si accedeva al cimitero di Bolzano, che si trovava qui dietro la parrocchiale. Vedete una cosa curiosa: il momento dell'elevazione, i militari si scoprono la testa e si inginocchiano, cosa che non avviene presso altri popoli e presso il popolo italiano in particolare. Non ho mai visto, io ho fatto il militare, ma non mi sono mai inginocchiato a capo nudo di fronte all'elevazione. E credo che questo l'esercito austro-ungarico praticava questa usanza, e so che anche l'esercito zarista praticava questo, si comportava in questa maniera. Evidentemente la vicinanza di Dio era sentita presso gli austro-ungarici più che non presso il regno italiano, che era all'epoca laico, non c'erano stati ancora i patti lateranensi. Una sfilata di austro-ungarici. Vorrei sapere se qualcuno deve riuscire a identificare la zona. Si vede qua questo crinale. Quello è monticolo, sì. Questo è quello che oggi è il campo d'aviazione, no? Ecco, qua c'è una sfilata. Questi sono autocarri austro-ungarici in Piazza Walter. Notate gomme piene, e notate un'altra, anche gli autocarri italiani naturalmente erano così, no? Notate anche una cosa che mi pare strana: i serbatoi di benzina sul tetto, una posizione estremamente estremamente pericolosa naturalmente, no? Soprattutto per gli autisti che ci stavano sotto, a questa autentica bomba che si portavano sulla testa. E questa è anche una fotografia che ritengo io almeno interessante. Qua c'è scritto Rittnerbahn, vedete qua c'è la stazione a valle della ferrovia del Renon, della cremaliera del Renon, da qua incomincia la salita. Ma io ho voluto far vedere questa foto per questi cariaggi. Devi ricordare il Far West, no? Sembra di essere con John Wayne qua in un film del West. Guardate, è veramente una cosa interessante e curiosa che non ho mai immaginato, l'ho scoperto vedendo questa fotografia. E questo è uno dei tanti momenti a Bolzano, è il Sacro Cuore di Gesù. Voi sapete della consacrazione del patto del Land Tirol con il Sacro Cuore del Gesù, sottoscritto nel 1796, quando le armate di Napoleone, generale Napoleone, non ancora imperatore, risalivano la valle dell'Adige. A Bolzano si temette l'arrivo dei francesi, che erano dei senza Dio, questa è una cosa da sottolineare, e allora nel palazzo Toggenburg, che si trova in Piazza Madonna, le rappresentanze clericali dello Stato sottoscrissero davanti ad un notaio questo patto con il Sacro Cuore del Gesù. È una cosa che ha anche dei risvolti, secondo me, a mezza via tra il curioso e il comico, insomma, non so come si possa immaginare una cosa del genere. Ma sta di fatto però che Napoleone, giunto a Trento, c'è che proseguire per Bolzano, girò a destra, fece la Val Sugana e se ne andò da un'altra parte. Quindi da allora i tirolesi, e i sudtirolesi in particolare, credono moltissimo alle qualità taumaturgiche del Sacro Cuore di Gesù, e questa è una processione che si verificò, una delle tante processioni che si tennero durante la Prima Guerra Mondiale per impetrare la pace, una pace però che doveva essere vittoriosa naturalmente, no? Mi torna. Qui ci sono militari, e questa che vedete qua è la stazione d'arrivo in piazza Walter della ferrovia del Renon, che adesso non c'è più, mentre questo è il palazzo attualmente, è quello delle generali praticamente, no? Vi ho detto prima, Bolzano è città che accoglieva feriti, ammalati, negli ospedali, negli alberghi, nelle pensioni. Gries, che era ricca di attrezzature turistiche rivolte ai villeggianti che venivano a Bolzano, a Gries in particolare, per curarsi dal centro Europa, erano in gran parte, anzi la quasi totalità, erano tubercolotici, venne tra l'altro anche, mi viene in mente adesso, a curarsi a Bolzano per la tubercolosi Lyubov Dostoevskaya, la figlia di Fyodor Dostoevsky, che morì a Bolzano nel 1926 al Grishof per tisi. Ecco, questi sono dei feriti vedete che bell'albergo, credo che sia l'Hotel Austria, che si trovava lungo l'attuale via Fago, che allora si chiamava, era la Habsburgerstrasse. E questo è un personaggio molto interessante che vale la pena di illustrare, non so se ne avete già sentito da parte mia. Questo è Lorenz Böhler, è quello della strada di via Böhler, è quello che ha dato il nome all'ospedale di Bolzano, l'ospedale Böhler, ad una clinica traumatologica di Merano, traumatologica nottate, perché Lorenz Böhler è l'inventore della traumatologia moderna. Venne qui a Bolzano come capitano medico e curò i feriti che affluivano in quella che oggi è il Conservatorio Monteverdi, che era stato un convento dei domenicani, trasformato poi in caserma, poi adattato a ospedale militare. Lui iniziò lì a curare i feriti, con preferenza per i fratturati, perché pensate un po', questo Böhler era figlio di un falegname che l'aveva fatto studiare. E allora questo giovane, geniale direi, di fronte alle non cure che venivano offerte ai fratturati dell'epoca, pensò se non era il caso di applicare il sistema di suo padre per riparare i mobili. Lo scheletro, vediamo lo scheletro non più fatto di ossa ma fatto di legno, per esempio. Ma perché? I fratturati all'epoca, una gamba fratturata, uno restava storpio, perché lo lasciavano così, cercavano dall'esterno di accomodare un pochettino, il braccio gli restava storto, quindi c'erano poche possibilità di recupero. E lui cosa faceva? Apriva, lavorava con staffe, con chiodi, con vite, nell'ironia degli altri medici, e guariva le persone. Per cui a un certo punto gli credettero, e i medici militari austriaci e germanici prima, anche italiani dopo, quando la guerra terminò, approvarono, impararono, assunsero la sua tecnica. E quando la guerra finì lui andò a Vienna, dove aprì una clinica eccetera, e fu riconosciuto come l'inventore della traumatologia moderna, che quindi si è fatto le ossa, il caso di dire si è fatto le ossa qui a Bolzano, anche con truffando un poco, anche con l'inganno. Pensate che si riporta, ho letto e l'ho tradotto qui, lo vedrete nelle pagine del mio libro, il caso di quella notte che lui seppe che c'era un treno di feriti in transito alla stazione ferroviaria. Allora cosa fece? Si prese alcuni infermieri militari, le sigarette e i sigari dei quali disponeva, andò in stazione, era buio, distribuì alle guardie sigari e sigarette e disse: mi porto via un certo numero di feriti, perché ne aveva bisogno, di fratturati, no? Perché voleva curare quel genere di feriti, insomma. Se li portò e li guarì. Eccoci qua. Riconoscete questo luogo? Questo è il chiostro dei Domenicani, dove operava Lorenz Böhler. Guardate questo militare col braccio alzato. Prima non si vedevano militari feriti, fratturati, con quei sostegni, quelle cose assurde che si continuano a vedere oggi. E c'era sempre in una mostra tenuta appunto al chiostro dei Domenicani, c'era anche scritto che siccome il convento dei Domenicani era stato adibito a scuola professionale, sì, esatto, lui sfruttava le strutture della scuola professionale, sì, perché, esatto, ha ragione, perché sotto quelle volte che poi erano chiuse, io ho una fotografia bellissima dello scultore Ehrenhofer, che del quale forse parleremo più avanti, che insegnava sotto quelle volte in una scuola professionale, dove c'erano dei falegnami, e quindi lui si rivolge anche a quella gente, insomma, per riparare i danni della guerra a carico di queste persone. Qui siamo nuovamente sotto, vicino agli archi del convento dei Domenicani, chiamiamolo ancora così, e qua è un momento di relax, come voi vedete. Questa è la fotografia che ha anche dei motivi di interesse suoi. Qua siamo davanti alla stazione, questa è la vecchia stazione asburgica, costruita nel 1859, in occasione, è il caso di dirlo, in occasione della seconda guerra di indipendenza, perché la ferrovia Bolzano-Verona, quella cioè che va in giù, fu realizzata nel 1859, quando era urgente il bisogno di trasportare truppe, munizioni e cose varie sui campi di battaglia e di riportare verso nord feriti, ammalati, prigionieri anche e cose del genere. Questa è la stazione che poi è stata abbattuta, è stata fatta nel 1929, quella che c'è tuttora, che è dovuta all'architetto Angelo Mazzoni. Tra l'altro le due statue che si trovano davanti sono state realizzate da Franz Ehrenhofer, del quale ho detto prima brevemente qualcosa, che forse incontriamo ancora più avanti. Questo signore, qui siamo del 1917, è il Kaiser, ma non è il Kaiser Francesco Giuseppe, che era morto nel 1916, questo è Carlo I, è l'ultimo Kaiser dell'impero austro-ungarico. Notate, lui passa in rassegna dei militari, notate che non c'è terra battuta, all'epoca a Bolzano non c'erano tutto l'asfalto che c'è adesso, tutti i ciottoli e i lastricati di porfido che ci sono. E passa in rassegna, questo è uno dei motivi, sento molto disturbi io nel microfono, forse è meglio che parli senza, lo tengo lontano, va meglio così, ecco, d'accordo. Notate che questi signori, questi militari, che tra l'altro hanno le scarpe, gli scarponcelli impolverati, cosa che vi fa capire appunto che le strade di Bolzano all'epoca erano piuttosto polverose, portano in testa il fez e non il normale berretto dei militari. Perché il fez? Perché sono bosniaci. combattono per l'impero austro-ungarico, ma vengono dalla Bosnia-Herzegovina e usano pertanto questo copricapo tipico delle popolazioni musulmane del Nord Africa, tra parentesi. Si chiama Fez perché c'è una cittadina che si chiama Fez. E sapete perché usavano questi cappelli senza visiera? Perché il musulmano, il bravo musulmano, deve pregare 5 volte al giorno, si deve inginocchiare verso la Mecca e tutte le volte deve toccare con la fronte il terreno. E se uno c'ha la visiera non riesce a toccarla. Sarà stupido, ma è così. Tra l'altro, se voi andate in quel posto molto interessante dove vorrei portarvi tutti, raccontarvi tante cose, e manca un'occasione per farlo, ma la dottoressa Trevisan una volta o l'altra potrebbe prendere questa iniziativa, vi porterei al cimitero militare austro-ungarico di San Giacomo, dove, ripeto, ci sono cose molto interessanti, tra queste anche delle lapidi di militari musulmani deceduti durante la prima guerra mondiale. E il curioso è questo, che non sono naturalmente contrassegnate da una croce, no? Solo da un paletto verticale con una mezza luna, e sono orientate verso la Mecca, mentre le tombe italiane, austro-ungariche ma anche italiane, sono orientate nel senso, in un senso qualsiasi. Noi non li orientiamo verso Gerusalemme o verso Nazareth, loro li orientano verso la Mecca. Qua siamo in Piazza Walter, questo è il oggi l'hotel città. All'origine ha tutta una storia questo hotel città, che tra l'altro celebra i suoi 100 anni quest'anno. Questo è un edificio che era l'hotel de l'Europe, c'era anche un ristorante che si chiamava Kreutners, dove facevano feste, si mangiava bene, eccetera, e che è stato abbattuto nel 1942, non dalle bombe, ma dalla cassa di risparmio, che ha avuto questa bellissima idea. C'era questa bella costruzione, no, stile Altman, e è sembrato che non fosse il caso di... ha avuto il beneplacito delle autorità di allora, che non vedeva di buon occhio queste costruzioni germanizzanti, no? Per cui la cassa di risparmio, oh, facciamo qualcosa di bello noi, no? C'erano anche dei progetti di impostazione piacentiniana addirittura, e quindi l'hanno abbattuto durante la guerra. Qua, forse qualcuno se lo ricorda, c'era un laghetto, perché avevano fatto questo lago per disporre di acqua nel caso di incendi dovuti a bombardamenti. Questo è il sindaco Peratoner, un grande sindaco che ha amministrato Bolzano per 27 anni e ne è stato cacciato dai fascisti. Era un sindaco liberale, conservatore, tradizionale, laico, ha avuto dei confronti pesanti con il clero bolzanino e non solo con quello bolzanino. Era moderatamente anti-italiano, perché si sentiva, ma non solo lui, il difensore dell'ultimo bastione verso sud, mentre da sud arrivava l'invasione degli italiani, i quali italiani già durante il periodo austro-ungarico esistevano, venivano qui a lavorare, erano non italiani italiani nel senso di Regnicoli, erano trentini che venivano qua soprattutto per lavorare nell'edilizia, quindi considerati con distacco, con disprezzo, no? Andavano ad abitare nella parte più disagiata della città, a Oltrisarco, che allora era una specie di suburbio, no? Come è diventata Shanghai dopo, notate un po', c'è sempre stata questa diffidenza dei bolzanini, di noi bolzanini, nei confronti di chi veniva dal sud, i trentini prima, i veneti poi, i rovigoti eccetera eccetera, i meridionali trattino terroni dopo, no? E adesso c'è l'Africa che arriva sempre più da sud, sempre più da sud. No, il Maghreb e poi i neri, con porta aperta anche per il Pakistan, eccetera, eccetera. La Cina, ormai Bolzano, andare a spazio per Bolzano è anche divertente perché è una bella città, nel senso che si vede di tutto, si sente parlare tutte le lingue. Dunque, questo è il generale Dunkel che comandava la piazza di Bolzano. E cerimonia, e questo è un giornalista, e questo è un mio antesignano, direi, che voglio sottoporre alla vostra attenzione perché mi piace di lui, che evidentemente aveva una moglie che si era sposato, che lo sgridava se arrivava a casa con i pantaloni impolverati, e come osservate si è tirato su i pantaloni per questa è un'altra cosa interessante, non so se ve l'ho già raccontata, ma credo di no. Se voi andate in piazza Gries, che si chiamava all'epoca Franz Josef Platz, vedrete questa Madonna con in braccio un bambino, che è stata scolpita, nuovamente riemerge il nome di Franz Ehrenhofer, che era un nostro dio che poi è venuto a Bolzano, senatore del Genio italiano, è morto a Bolzano, bravissimo scultore figurativo. Questa croce, dunque, la struttura scultorea in quanto tale è di terracotta dipinta. Questa croce è di legno, ma se voi andate a vedere da vicino, e vi invito di farlo perché è una cosa interessante, vedete che è tutta coperta da chiodini. Ogni chiodino è un'offerta per il Kriegsfürsorgeamt, per l'ufficio, per l'assistenza alle vedove, agli orfani, alle famiglie di militari in difficoltà. Ogni chiodino era fatto d'argento o di rame. Io penso di metallo argentato o ramato, perché sennò gli avrebbero già grattati giù tutti, insomma, no? Ecco. Però le domeniche, i giorni festivi, nel pomeriggio, nel momento del rosario, della Andacht, si faceva una piccola cerimonia e venivano piantati gli ulteriori chiodi. Vedete, qui è il momento della Andacht, per l'appunto. Andate a vederlo, è interessante. Qui siamo in piazza Walter, le signore raccolgono denaro per la Croce Rossa, questo è un militare. Ecco, ho detto prima delle campane. Le campane vengono calate, nel caso specifico, dalla torre campanaria del convento di Gries, sul lato interno, non sul lato esterno. Qui riconoscete l'Hotel Germania, che adesso è diventato una residenza, no? Se andiamo avanti, vedete tutta questa massa di campane affluite a Innsbruck. Da Innsbruck venivano portate per essere fuse a Vienna. E se voi guardate bene, qua c'è anche il nome dell'origine, qua Fai della Paganella. Questo mi pare anche Fai, vero? Qui non c'è la faccia, ma è un'altra Cavedago, esatto, un'altra località trentina. Le portavano a Vienna, le fondevano e se ne facevano dei cannoni. Muore Franz Josef. Ed ecco, ho già anticipato l'immagine di Carlo I. Carlo I, Unser Neues Kaiserpaar, la nostra nuova coppia imperiale, con l'imperatrice Zita, che gli sopravvisse a lungo. Sì. Portando con sé, tra l'altro, un segreto che poi alla fine lei rivelò, che era quello della morte del principe ereditario Rodolfo con la baronessina Maria Vezzera a Meierling, e pare proprio che Rodolfo sia stato ucciso in una congiura di palazzo, che non si sia suicidato, dovrebbe essere stato un duplice omicidio, perché Rodolfo scalpitava un po' e si era avvicinato troppo ai fautori della indipendenza ungherese. E queste sono appunto Carlo, Zita, arrivano alla stazione di Bolzano. Qua sulla sinistra, in un'altra immagine, c'è il sindaco di Bolzano. Notate questi notabili con le feluche in testa, no? Cose che oggi sono inimmaginabili praticamente. Sotto anche un po', sanno da operetta, no? Sono un po' grottesche, però hanno un loro ordine, hanno una loro logica, una loro, ma no, che ne so. Voglio dirvi una cosa, che l'imperatrice, la Kaiserin, piacque al giornale, nel caso specifico, che rilevò, voglio farvela rivedere, la modestia, la sobrietà del suo vestito. E commenta il giornalista la Unzere Kaiserin, naturalmente, è apparsa vestita con servizi sobri, si vede che lei non si serve, non si fa, non si approvvigiona presso i sarti ebrei di Parigi. A Bolzano l'antisemitismo era sentito non poco. E qui siamo, ecco nuovamente l'imperatrice, questo è nuovamente il Kaiser Carlo, in macchina, in arrivo davanti a scuola. All'odierna scuola Dante, che era allora la Elisabethschule, che poi i fascisti nel 1922 svuotarono della scolaresca tedesca e sostituirono questa scolaresca con quella di lingua italiana, e la scuola allora, da Kaiserin Elisabeth, divenne scuola Regina Elena, adesso dopo il crollo di Savoia, scuola Dante. Perché andate a visitare questa scuola, la coppia imperiale? Perché c'era una esposizione di Kriegsmaler, i pittori della guerra. Erano artisti, pittori ma anche scultori, che esaltavano i momenti, facevano praticamente della propaganda politica, esaltavano i momenti gloriosi, vittoriosi della guerra in corso, naturalmente, in cui gli austro-ungarici erano i vittoriosi, insomma, i personaggi da esaltare, a dispetto degli italiani che invece le prendevano, no? E in quella sede fu esposto quello che sarebbe dovuto diventare il monumento ai Kaiserjäger, che fu progettato, tanto per cambiare, da quel Franz Ehrenhofer del quale ho già detto. Notate una cosa, si trovava al posto del monumento alla vittoria, e vi vorrei far notare una cosa: questa costruzione circolare mi sembra molto strana, perché mi ricorda un altro monumento che si trova in regione qui da noi, il Dos Trento, Cesare Battisti, vero? Sì. Venne dopo quello, naturalmente, no? Però l'impostazione era questa: Franz Ehrenhofer progettò questo monumento, che fu i cui lavori iniziarono ma non terminarono, poi il tamburo che era stato costruito fu abbattuto, ma fu vivamente contestato perché i personaggi che lui aveva immaginato, che lui aveva progettato, erano nudi. La qualcosa suscitò l'indignazione della buona stampa e dei ben pensanti. Cosa accadrà quando le mamme con i loro bambini andranno nel parco e vedranno questi uomini nudi? Che bisogno c'è di scolpirli nudi se avevano la divisa? Non è tutto sbagliato, ma non è neanche tutto giusto, insomma. E questo è appunto un'opera di Franz Ehrenhofer. Vi ho voluto proporre appunto una delle due statue che si trovano, come vi ho detto in precedenza, davanti alla stazione ferroviaria di Bolzano. Questa simboleggia l'attrazione elettrica, vedete che tiene in mano una dinamo, e l'altra che è un uomo e simboleggia invece la trazione a vapore. Fila davanti ad una farmacia perché c'è la distribuzione della saccarina. Si costruisce una ferrovia, i giornali non ne parlano di questa ferrovia. Io l'ho preso, leggendo i giornali per via indiretta, perché un giorno il Tiroler raccontava che si è scoperto uno scheletro mentre si costruiva, si scavava per la costruzione di questa ferrovia, che era la Chiusa Plan, cioè una ferrovia militare. Perciò i giornali non ne parlavano, non si doveva sapere. La costruivano, l'hanno costruita quasi tutta i russi, tra parentesi. Questo è un ponte, provvisorio naturalmente, che per me, visto così, è una fantastica opera di ingegneria. Io non ci capisco niente. Dove precisamente? Non lo saprei dire. No, è sopra Chiusa, è sopra Chiusa. È sopra Chiusa. E questo è un momento triste, questa è l'impiccagione di Cesare Battisti, ecco, che fu preso in divisa d'Alpino. Cesare Battisti, quello è il boia, questo è Lang, che era il boia che era venuto espressamente da Vienna e che uccise in maniera particolarmente dolorosa e sadica Cesare Battisti. Di solito si mette una corda al collo, lo si butta e si dice, quantomeno credo che sia così, non vedo perché non debba essere così, che per l'attrazione, il colpo improvviso al condannato si spezza l'osso del collo e muore subito o quasi. Qui invece fu, a quanto vedete, una sofferenza più lunga. Fu appoggiato ad un asse di legno verticale e tirato su. E naturalmente era un traditore, come gli altri due che figurano nel monumento alla vittoria, no? Damiano Chiesa e Fabio Filzi, trentini, dei quali uno fu a sua volta impiccato e l'altro fu fucilato. Quando c'erano queste etnie diverse, c'era un'armata, non era proprio un corpo d'armata, ma c'erano delle compagnie, dei reggimenti, battaglioni, cioè non so quanti fossero quantitativamente questi soldati militari cecoslovacchi, cioè boemi, moravi, e gente che apparteneva all'impero austro-ungarico, alla monarchia, ma erano dei traditori perché erano passati al di qua delle linee per combattere contro l'impero e per la libertà del loro paese. Difatti nacque la Cecoslovacchia, no? Quando venivano conquistate posizioni nelle quali si trovavano dei boemi o cose del genere, questi militari venivano giustiziati sul posto, non si facevano prigionieri. Questo è un aereo italiano che sorvola Bolzano e fa questa fotografia, Piazza Walter col monumento, la linea ferroviaria, la stazione col piazzale davanti. Qui vedete un pezzo di fiume Isarco, perché durante questa prima guerra mondiale si adottò anche logicamente l'aviazione, che non era però un'armata a sé stante, un'arma a sé stante, e operava in funzione dell'esercito. E questa è un'immagine che mi sono impadronito di questa immagine perché l'ho trovata nell'archivio vista in internet del Museo del Risorgimento di Rovereto, e non volevano darmela perché costava 30 euro gli editori 30 euro non me li dava, allora, ma no, lei non ci deve speculare sopra. Beh, io ci speculo lo stesso, tanto voi non è che mi pagate al termine di questa chiacchierata, no? Basta, come l'ho detto, perché è troppo bella questa immagine. Questa è presa da un aereo italiano, notate un biplano, uno, due, i due longheroni di sostegno, il Duomo, Piazza Walter, il cimitero. Questo è il vecchio cimitero di Bolzano, che negli anni 30 fu poi trasferito dove si trova tuttora. Ecco, questo in un certo senso è l'odierna via, qui è un sentiero un poco più, via Alto Adige, per l'appunto. E questi sono gli effetti di un sorvolo da parte degli italiani di Bolzano. Siamo in Piazza Walter, 1918, il grifone, una bomba ha colpito il tetto del grifone. A confronto con quello che è stato combinato a Bolzano con la seconda guerra mondiale, questa è una pura barzelletta, no? Eppure allora si giungeva a questi estremi, non oltre. E questa è una bomba inesplosa italiana, sempre a Bolzano, sempre Piazza Walter, con la gente che si accalca curiosa attorno a questo ordigno. E qua, vi conoscete il personaggio, sì, vero? Questo è D'Annunzio, naturalmente. E questo è Natale Palli, che era in un certo senso il pilota preferito di D'Annunzio, che fece volare D'Annunzio anche nell'estate del 1918 sopra Vienna, quando furono lanciati i tricolori, sì, i volantini tricolori. Perché ve l'ho proposto? Perché Nicola Palli bombardò Bolzano e lo ha presi proprio da un giornale tedesco, austro-ungarico, no, neanche austro-ungarico, un giornale di lingua tedesca nel 1921-22, quando era già Italia naturalmente, quando morì Palli nel tentativo di superare in volo il Monte Bianco. Tentò questa che allora era una grande impresa naturalmente, fu costretto all'atterraggio su un nevaio. Al tempo non c'erano gli elicotteri, stette là 3 giorni e quando lo raggiunsero era morto assiderato. Il giornale diede la notizia ricordando che Natale Palli aveva bombardato Bolzano. È il momento del collasso dell'esercito austro-ungarico. Qua siamo, vedete, Bolzano-Bozen. E gli austro-ungarici lasciano il campo, e centinaia di migliaia di soldati sbandati, senza più nessuna forma di assistenza e senza al seguito forme di alimentazione possibile, risalgono le valli. E trovano da mangiare dove trovano, e rapinano, ne fanno di tutti i colori, dato che erano dei disperati che avevano bisogno di mangiare, che camminavano per giornate intere, che volevano tornare a casa, che non ne potevano più, anche comprensibili sotto questo profilo. Trovano dei treni qui a Bolzano, si mettono nelle posizioni scomode che voi vedete, caricano i treni in questa maniera e devastano Bolzano, saccheggiano Bolzano. Ci furono dei morti, anche Molini Restler in particolare, perché loro poi si rapinavano e si rapinavano tra di loro, anche erano tutti armati naturalmente, tutti questi militari, no? La stampa locale diceva che non sono tedeschi, non sono austriaci, ma sono boemi o ungheresi. Si cercava di rimuovere la nazionalità di questi personaggi, e c'è da dire che forse era anche vero, perché gli ungheresi e i boemi avevano più di un dente avvelenato contro l'Austria. E qua siamo invece in Piazza Walter, dove di questi militari in un modo o nell'altro riescono a cucinarsi qualcosa, a mangiare qualcosa. Vedete questo signore elegante che la guerra non l'ha fatta, il bambino elegante assieme al papà elegante, e poi vorrei farvi notare questo povero soldato. Guardate, ha un berretto che è più grande di lui. Lui è magrolino, facilmente a 17 anni. Ricordate i ragazzi del 99 italiani? Ci furono anche dall'altra parte delle trincee, questi poveri ragazzi. È la scrematura finale, non c'è più nessuno disposto a portare un fucile, e si sono rivolti a degli autentici ragazzi. Questo era uno di questi. Arrivano gli italiani, piazza Valtri, i cannoni in piazza Valtri, una sfilata, manifestazione di potenza, d'autorità naturalmente. È interessante leggere il libro perché c'è la cronaca giorno per giorno, prima c'è la descrizione del saccheggio, poi arrivano gli italiani chiamati dai tedeschi, perché il sindaco Peratoner, di fronte al saccheggio della città, cosa fa? Prende l'automobile e va alla Mendola, non a Trento, incontra gli italiani, perché se andava verso Trento trovava tutta la massa di questi soldati, di questi sbandati che gli veniva incontro, e allora è andata alla Mendola, perché la strada della Mendola era libera. La strada della Mendola, per arrivare alla Mendola, si faceva la Mendelstraße, dove siamo noi adesso. Questa è la strada della Mendola, no? E si passavano i vigneti e si andava su verso Piani, ci si arriva alla Mendola, dove gli italiani erano già arrivati, e il Peratoner e nella rappresentanza del comune chiese alle autorità militari italiane di intervenire rapidamente per mettere ordine, per contribuire a mettere ordine. Atterrò un aereo militare sul campo del Talver con un capitano che si mise in contatto con il comando austro-ungarico che si trovava a Griese, annunciò per l'indomani l'arrivo dei primi reparti italiani, che arrivarono e incominciarono a mettere ordine. È singolare il fatto che il giornale descrive: sono arrivate le prime truppe italiane, e i cittadini di Bolzano li hanno accolti con curiosità e senza alcuna ostilità, e hanno rassegnati. Poi non c'era niente da fare. Gli italiani poi si sono spostati verso nord, accompagnando tutta questa massa di persone che hanno rifocillato naturalmente, e sono arrivati fino a Innsbruck, dove è stato dato da mangiare anche alla popolazione, perché se c'era la fame, Bolzano c'era la fame anche a Innsbruck. E sono arrivati a Innsbruck e anche a Landeck. Aviatori italiani al campo di San Giacomo. Il Duca d'Aosta, assieme a Credaro, il commissario del Trentino, della Venezia Trentina, allora non era ancora ufficialmente chiamato così, era ancora la parte meridionale del Tirolo. Questo è il sindaco di Merano, Markart, che era, qui siamo a Merano, che era di origine trentina, era di mezzo lombardo. E a questo punto credo che abbiamo finito. Sì, non vedo più niente. Insomma, la guerra è finita. È finito anche il disordine conseguente a questo momento drammatico. Il mio libro però va fino al 1919. Perché? Perché questo intervallo di tempo che va dal novembre fino ai primi mesi del 1919 sono stati qua, in Alto Adige, che ancora non si chiamava Alto Adige, no? Questo era il Tirolo, neanche Sud Tirolo, perché il Sud Tirolo era il Trentino. Questo era il vero autentico Tirolo. Castel Tirolo è qua. Quindi già oggi la differenza tra Nord Tirolo e Sud Tirolo è molto molto ambigua, insomma, no? Ecco, i Sud Tiroler o Welsh Tiroler erano i trentini. E questa terra restava incerta come attribuzione, e io ho voluto proporre nel libro anche tutti i momenti di rammarico, di speranza della popolazione, della cittadinanza locale di lingua tedesca, logicamente perché il 90% della popolazione parlava il tedesco, di fronte alla eventualità paventata di un passaggio all'Italia. E concludo con il toccante discorso che riferisco per intero, è che il sindaco Pera Toner ha fatto al Consiglio Comunale di Bolzano quando si è appreso che ormai non c'era più nulla da fare, che quello che diventerà Alto Adige era passato, con tutto quello che era a sud del Brennero, era passato all'Italia. Questo avvenne al Consiglio Comunale nel novembre del 1919. Pensate quanto tempo si attese, dopo quasi un anno, praticamente un anno, prima di decidere in merito. E Pera Toner esprime in questa sua allocuzione, che ho definito toccante, tutto il suo rammarico e anche le sue speranze, che le nostre speranze, la nostra fiducia nelle intenzioni oneste del governo italiano di dar seguito alle sue solenne parole non vengano disattese. C'era l'intenzione, una intenzione onesta da parte di Savoia, così almeno sembrava, ma vennero i fascisti. Grazie dell'attenzione. Ringrazio ancora il dottor Frangipane e lo prendiamo in parola allora per la visita al cimitero austro-ungarico. Sì. Magari si potrebbe organizzare più avanti, in primavera. In primavera, se volete vi porto là. Condizioni ambientali un po' più favorevoli. Esatto. Poi faremo un comunicato, no? Grazie. Benissimo, prego, prego.